è l'Italia, è la magia, la poesia dell'Italia, questo grande paese a sforma di spuntatura di maiale. E anche in questo preciso momento, va bene? In questo luogo, nella natura, un luogo dove si fa arte, no? E cultura, dove si nutre lo spirito. Ecco, in questo momento, nei pensieri di chi sta seduto su questo prato, nei vostri pensieri, sottilmente si insinua un altro pensiero, di colore diverso ma più muscoloso. Quando si mangia? Dove si mangia? Qualcuno ha prenotato, qualcun altro non lo rifregano, ha già cenato. Ecco, alcuni invece sono qui. Pochi, pochissimi non pensano a questo, sono semplicemente stanno ascoltando e sono persone equilibrate e ragionevoli, persone cui basta una mela alle sette, persone che in questo paese vengono considerate vili, losche, quando non addirittura impotenti. Ecco, noi ci affidiamo a voi, al vostro equilibrio, a questa vostra straordinaria capacità di considerare il cibo come semplice mezzo, come strumento per poi fare altro. È una cosa affascinante, noi non la possiamo capire, ma ugualmente ci sembra bellissima. Nelle vostre mani deponiamo il nostro futuro. Siete la nostra speranza, dovrete resistere in un paese che ha fatto del cibo la sua luminosa, potente bandiera. Vabbè, vabbè, qua poi c'era il finale. Vabbè, era, no, era pure bello, era anche un po' poetico, dove si tiravano tutte le somme, vabbè. Solo che se lo so magnato. Il monologo Gola di Mattia Torre, interpretato da Valerio Aprea. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Marzia Ercolani per presentare Oddio come siamo libere, omaggio a Giorgio Gaber, a cura di Valentina Cardinali e appunto Marzia Ercolani a Roma, Teatro Lo Spazio, martedì 15 febbraio 2022. Ben trovata! Ben trovato Federico, grazie. Grazie mille per l'invito. Te ne parli? Sì, volentierissimo. Io e Valentina ci conosciamo da tanti anni. Valentina è una cantante e una pianista strepitosa e abbiamo scoperto l'anno scorso in fase di lockdown questa grandissima passione comune per Giorgio Gaber. Addirittura Valentina è laureata su Giorgio Gaber, la sua tesi è proprio sul teatro canzone, e quindi siamo partite. Io sono anni, anni, anni che in qualche modo mi affaccio e attraverso il repertorio del signor G, lei anche, ed era ora di costruire, di aver cura di un progetto che fosse dedicato a lui. E ci diverte anche un po' il fatto che siamo due artiste, due donne, quindi che attraversiamo con la nostra sensibilità femminile anche tutta una serie di testi dedicati alle donne, all'amore e ovviamente poi tutta la questione politica e anche la questione invece più filosofica, spirituale dell'essere umano. Quindi sono tre grandi linee in qualche modo che noi tocchiamo nello spettacolo: amore, ragionamento che Luporini e Gaber facevano sulle difficoltà dell'essere umano, fondamentalmente sulle contraddizioni dell'animo umano, e poi per chiudere con quella che poi è stata forse una delle sue corde più conosciute, che era la questione più politica e sociale. Quindi sì, è uno spettacolo di teatro canzone vero e proprio. Io chiaramente come attrice gestisco fondamentalmente tutta la parte monologante e Valentina invece cura la parte musicale e canora. Poi in realtà io entro nella sfera canora a un certo punto e lei entra nella sfera dialogante e quindi parlata, però di base questo è poi l'equilibrio del progetto. Come avete pensato quindi la messa in scena? È molto semplice perché ci teniamo tantissimo a far uscire fuori l'interpretazione e quindi proprio i contenuti e la verve umoristica della scrittura di Gabber e di Luporini, e quindi non abbiamo appesantito la messa in scena a livello estetico con scenografie eccetera, però abbiamo fatto delle scelte, quello sì. Prima di tutto abbiamo scelto di in qualche modo evocare vagamente due figurine, in questo caso sono le donne, quindi abbiamo due maschere sceniche, quindi abbiamo dei vestiti che ricordano un pochettino Aspettando Godot, se vogliamo, comunque abbiamo la bombetta, le giacche nere, siamo vestite un po' cipriniane, così, ed è qualcosa che ci ricorda alcuni spettacoli che fecero Gabber e Iannacci insieme, insomma, e Gabber fece al Piccolo di Milano un Aspettando Godot, insomma, ci piaceva divertirci con queste maschere sceniche. L'attenzione enorme che abbiamo avuto nel lavorare tutto l'enorme materiale che ovviamente Gabber e Luporini ci hanno lasciato è quella di non andare mai, mai a tentare un'imitazione. Abbiamo quindi trovato le nostre porte d'ingresso con le nostre corde attoriali e canore, con le nostre sensibilità, con il nostro gusto. Valentina, per esempio, è un'eccezionale blueswoman e chiaramente anche la musicalità di Gabber stesso, che comunque aveva delle radici blues nel suo essere musicista, chiaramente fa sì che Valentina interpreta in un modo eccellente ma totalmente personalissimo tutta una serie di brani molto conosciuti di Gabber. E in più, altra cosa che ci abbiamo proprio tenuto è nella grande, grande difficoltà di scegliere, perché insomma, Gabber, come tantissimi altri artisti e artiste, ci hanno lasciato 40 anni di lavoro e quindi abbiamo dovuto fare delle scelte, anche con grande difficoltà, ovviamente a malincuore abbiamo scelto di non mettere magari alcuni brani famosissimi, e abbiamo quindi creato e trovato un equilibrio tra alcuni pezzi proprio cult, se vogliamo, cioè proprio veramente che canteremo tutti e tutte assieme probabilmente, e altri invece volutamente meno conosciuti, più intimi, più di nicchia. Certo, i gabberiani doc li conosceranno, però diciamo che sicuramente abbiamo tentato un equilibrio proprio per attraversare un affresco che fosse il quanto più possibile completo di tutte le varie corde che ci sembrano essere state poi quelle di questa figura immensa del teatro canzone. Ecco, questo titolo chiaramente prende spunto e si inchina, insomma, a una frase che a un certo punto lui dice in un monologo. Il monologo è l'elogio della schiavitù, e a un certo punto lui dice: oddio, oddio, oddio, oddio, come sono libero, oddio, come sono libero. Cioè, aiuto! Ovviamente ha un contenuto, un approccio umoristico, ma anche un po' per ricordare Libertà Obbligatoria, che era un altro album di Gabber. E quindi, insomma, Oddio come siamo libere ci sembrava un titolo giustissimo per condensare fondamentalmente i contenuti che noi porteremo poi in scena tramite le scelte che abbiamo fatto, appunto, e anche perché da una parte, a nostro avviso, contiene un peso specifico questo titolo, cioè che sia molto più serio di quello che sembra, ma poi c'è anche tutta la leggerezza e l'umorismo proprio della scrittura appunto lupuriniana e gabberiana, ecco. Ci lasci questo. Dei riferimenti web per saperne di più? Federico, ti ringrazio. Allora, si può andare intanto sul sito del Teatro Lo Spazio con tutti i riferimenti per poter acquistare addirittura i biglietti direttamente online, oppure il numero del teatro attraverso il quale si può prenotare per poi pagare al botteghino. Si può prenotare su WhatsApp tramite il 339 7759 351, oppure chiamando direttamente in teatro lo 06 77 20 41 49. Lo spettacolo inizia alle ore 21, dura circa un'ora e un quarto, e vi possiamo assicurare, vi promettiamo che vi faremo divertire, che sarà bello. Ecco, questo sicuramente. Lo spettacolo Oddio come siamo libere, omaggio a Giorgio Gabber di Valentina Cardinali e Marzia Ercolani, a Roma, Teatro Lo Spazio, martedì 15 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Marzia Ercolani. A presto! Grazie a te Federico, a presto, grazie! Con l'autrice e attrice Eleonora Danco per presentare la sua performance Intrattenimento violento, e a seguire la presentazione del suo libro Tempi morti con Federico Pontigia a Roma al Cinema Troisi mercoledì 16 febbraio 2022. Ben trovata! Ben trovato Federico, ciao, sempre un piacere parlare con te. Grazie. Partiamo da Intrattenimento violento, che tipo di performance sarà? Contiene molti brani, stralci, quasi tutti presi dal mio nuovo libro Tempi Morti, che pubblico con Giulio Perrone Editore e che presento al cinema Troisi in forma di performance, anche se è un cinema, è proprio questa la cosa che ho voluto fare, una performance in un cinema insieme a Federico Pontigia, che è un critico, un intellettuale che stimo moltissimo e che ringrazio di accompagnarmi a presentare insieme il libro. Questo è un libro che raccoglie 26 anni del mio percorso di scrittura, di narrativa, di teatro, di poesie. Ci sono molti testi che mi avevano commissionato e che poi per una serie di cose ho consegnato ma non sono stati mai realizzati, quindi sono molto contenta finalmente di pubblicarli. Dal 96 al mio primo testo, Ragazzi al muro, a Deversivo del 2017, gli inediti appunto Tempi morti, da cui prende il titolo il libro, Bocconi amari semifreddo, che spero di poter fare in scena, insomma c'è una contrattazione con il Teatro Argentina insieme allo Stabile di Napoli per portarlo in scena a 5 attori. E poi ci sono dei racconti, flash, racconti di sabbia che sono presi da alcuni testi che avevo scritto per il Garofano Verde, le poesie, insomma ci sono molte cose. Donna numero 4, che sarà uno degli stralci anche che presenterò insieme ad altri pezzi la serata del 16. Guardando a questi 26 anni di attività, come vedi il tuo percorso? La cosa che mi ha fatto piacere vedermeli tutti davanti così è stato che ho cambiato pochissime cose dei testi, e hanno una forza, un impatto, d'immagine. E mi fa piacere vedere anche fino a 26 anni fa, appunto il primo era del 96, Ragazzi al muro, che poi era Ragazzi al muro il testo originario di quello che poi è diventato La ragazza matta alla fermata dell'autobus, che sta anche nel libro della Minimum Fax, Ero purissima, che anche quello raccoglie alcuni miei testi. In questo nuovo libro Tempi morti ho voluto mettere proprio il testo come era nato all'inizio, cioè a due personaggi, con tutte le battute, con tutti i pezzi in più, quindi sono molto contenta di portarlo, mi ha fatto emozione metterlo dentro, perché era proprio il mio primo esperimento, che poi misi in scena e poi andò benissimo, poi da lì mi sono fermata per 3-4 anni perché andò talmente bene che mi domandai cosa devo fare ora, e ho sempre avuto bisogno di vivere per scrivere, di stare in mezzo alle cose, di sporcarmi le mani. Ecco, se c'è una lezione che mi ha dato Pasolini è proprio questa cosa di sporcarsi le mani con quello che fai. E io sono una performer, quindi è come se fosse anche il mio modo di vivere, di ragionare in questo senso fisico. Bisogno di stare in mezzo alle cose, mi devono salire fisicamente e questo comporta dei tempi e un certo tipo anche di atteggiamento. La cosa che mi piace molto del libro è vedere anche che c'è questa linea, che ho sempre usato una scrittura di immagini e non ho mai utilizzato i temi sociali. C'è una bellissima prefazione di Christian Raimo dove sono contenta che coglie proprio questo aspetto, non ne avevamo parlato, io gli ho fatto solo leggere i testi e ha scritto la prefazione, ma coglie, Christian pure mi conosce da tanto tempo, ha visto tanti miei spettacoli, film eccetera, però lui coglie proprio anche questo e dice lei non usa mai temi diciamo che vanno di moda sociali, ma usa altri tipi di cose più umane, più del comportamento umano. E di questo sono contenta, perché il mio lavoro in questo senso è stato indipendente, ma proprio per questo forse questi testi, ecco, non si sente che hanno dai 26 ai 23, 24 anni, sono più grandi dei ragazzi che mi seguono nei seminari, quindi questo per me insomma è una soddisfazione, ecco, mi fa piacere, ci tengo molto infatti a questa pubblicazione. La performance Intrattenimento violento è a seguire il libro Tempi morti in compagnia di Federico Pontigia a Roma al Cinema Troisi mercoledì 16 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Eleonora Danco. A presto! A presto, grazie Federico, buon lavoro! Con Masha Musi per presentare lo spettacolo Preghiera per Chernobyl dall'opera di Svetlana Alexievich, riduzione teatrale di Massimo Luconi e Masha Musi, regia e ideazione scenica di Massimo Luconi. A Roma, Off-Off Theater dal 16 al 20 febbraio 2022. Ben trovata! Salve, ben trovato a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Come lo racconteresti in breve? questa è una storia tratta dal libro Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexeyevich, premio Nobel 2015, che racconta appunto tante storie vere delle persone che hanno vissuto la tragedia di Chernobyl. E insieme a Massimo Luconi, tra le tante storie, abbiamo scelto quella che ci ha più colpito, più emozionato, quella che poteva anche essere adatta al palcoscenico a me, ed è la storia vera, appunto, della moglie di uno dei vigili del fuoco che prestò la sua opera in quella notte del 26 aprile 1986. Loro andarono così com'erano, in camicia, senza indossare la tuta protettiva, e sono tutti morti in 14 giorni in un modo terribile. Questa moglie di uno di questi vigili del fuoco ha vissuto questa esperienza, lei era anche incinta, quindi abbiamo deciso di raccontare questa tra le tante storie del libro. Io quando ho letto il libro mi è subito piaciuto riuscire a conoscere più da vicino questa terribile realtà delle persone che avevano vissuto questa esperienza. E ho amato molto l'autrice e il suo coraggio nel voler raccontare questa realtà. Ci sono storie di militari anche che hanno dovuto sotterrare animali vivi, piante, case e quant'altro. E mi sono detta, io che cosa posso fare nel mio piccolo per non dimenticare tutto questo? Ecco, io faccio teatro, forse posso farne uno spettacolo. E ci abbiamo provato. Con Massimo abbiamo appunto lavorato un po' al testo, abbiamo immaginato come poter raccontare questa storia in teatro ed eccola, è uscita fuori. Il titolo abbiamo voluto mantenere lo stesso del libro dell'Alexeyevich, Preghiera per Chernobyl. Il termine preghiera è molto giusto, è molto bello, dovrebbe essere una preghiera collettiva proprio in memoria di questa orribile tragedia che è accaduta e che non dobbiamo dimenticare. Cosa avevi apprezzato del testo? Beh, il coraggio di questa autrice di andare a scavare le storie di chi ha vissuto quell'orrore e di raccontarle. È anche una scrittura molto semplice, lineare, diretta e emozionale. Qualche volta mi è venuto da piangere leggendo il libro. Come avete pensato la messa in scena? È molto semplice. Abbiamo pensato che la storia era la cosa più importante, la storia di questa donna che racconta da una parte la morte del marito e dall'altra il suo amore senza fine, col quale ha dovuto sostenere questi 14 giorni vissuti accanto al marito, vedendo delle cose orribili, ma anche col quale ha dovuto sostenere poi tutta la sua vita in questa esperienza. Lei era incinta di 6 mesi, poi ha perso questa bambina, poi ha avuto un altro figlio da un altro uomo, ma il suo grande amore, il suo amore unico, è stato appunto il suo marito, vigile del fuoco, e ci siamo concentrati su queste. La scena è minimale, l'attrezzeria anche, è una storia talmente potente, talmente forte, che abbiamo pensato di mettere al centro la storia di questa donna e semplicemente accompagnarla con le musiche, con le luci, con un minimo di scenografie e di attrezzeria. Che storia ha questo spettacolo? Quando è nato e dove lo state portando? Nasce 2 anni fa al Festival di San Miniato, che ha sempre avuto una sensibilità speciale verso tutte le storie umane e anche in qualche modo di amore e di spirito. E in qualche modo questa storia e la tragedia di Chernobyl è stato un progetto che il Festival di San Miniato ha sposato subito. Insieme, in collaborazione al Festival di Radicondoli, che è sempre un festival della Toscana, che è curato proprio dal regista Massimo Luconi, che in primis ha avuto l'idea di questo progetto e me l'ha proposto facendomi leggere il libro. Quindi questi 2 appuntamenti importanti in estate, poi abbiamo fatto qualche altra replica sempre nella Toscana, poi è arrivato il Covid e ci siamo fermati. Roma doveva essere un appuntamento già l'anno scorso, purtroppo non siamo riusciti perché

Vi racconterò il 68 italiano, perché internazionale sarebbe veramente vastissimo, e già italiano lo è, e lo racconterò in una maniera particolare, perché a partire dalle canzoni della Hit Parade di quell'anno, cioè con qualche micro eccezione che non voglio rivelare, qualcosa che non è proprio del 68 ma comunque sta in quell'epoca lì, quindi a partire dalle canzoni dove ce n'è solo una che non sia proprio delle Hit Parade, perché non potevo non citarla, Contessa, non si poteva non citare, cioè è proprio la canzone manifesto di quegli anni. E quindi dicevo, a partire dalle canzoni racconto i punti salienti del 68 o di quel che esce fuori dal 68, perché chiaramente non è che il 68 si riduce a quell'anno, ma poi è tutta una fascia di anni che vanno, se vuoi, dal 65, 66 fino al 77, 78, cioè in quelle annate meravigliose della storia italiana e internazionale c'è stato un grande cambiamento. Infatti una delle cose che dico, il Time definì il 68 come un rasoio che divide il passato dal futuro, quindi in qualche modo è stato un'epoca che ci ha traghettato nella modernità o comunque insomma in un'epoca diversa. Chiaramente lo faccio attraverso sia i fatti storici sia l'autobiografia, perché come si diceva all'epoca il personale è politico, e quindi a partire da alcuni aneddoti veri o non veri della mia famiglia racconto appunto gli eventi fondamentali, quello che poi in qualche modo ha segnato molto la nostra storia. Racconto intrecciato alla musica? Ovviamente sì, certo, certo. Canzoni meravigliose di quegli anni, dove tra l'altro la scoperta che ho fatto io stessa è che quelle canzoni pop che appunto sembravano in qualche modo disimpegnate, quelle che teoricamente sarebbero potute andare a un Sanremo, ecco, tanto per farvi capire, in realtà erano delle canzoni che portavano delle istanze di cambiamento notevoli, cioè rispecchiavano esattamente quegli anni là, ecco. Poi non porto le canzoni di Sanremo ovviamente, ma era per farvi capire. Ci sono canzoni meravigliose di quegli anni, una su tutte, Insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli, meravigliosa. Lì ci abbiamo tutta la questione femminile, perché il femminismo, anche se tende a dire che è nato nel 69, cioè si vuole proprio distaccare dal 68, però in realtà nasce lì e anche prima, per esempio con la storia di Franca Viola, che è stata la prima ragazza cosiddetta disonorata che ha fatto sì che cambiasse il nostro codice penale, perché fu la prima ragazza che decise di non sottostare al matrimonio riparatore e quindi denunciare il proprio stupratore, e questo realmente cambiò il nostro codice penale. All'epoca c'era ancora il delitto d'onore, c'era il matrimonio riparatore appunto, che consentiva allo stupratore di una ragazza che avesse acconsentito a sposarla di uscire quindi indenne da questa cosa e quindi non venire denunciato, oppure erano vietati gli anticoncezionali, non era consentito l'aborto, non era consentito il divorzio. Ecco, questo in ambito di quello che oggi si chiamano le parità di genere, ma poi ci sono state tante altre conquiste nel 68, tipo le 40 ore lavorative, diritto di uguali salari o il diritto d'assemblea. Pensate che la prima assemblea, adesso a parte al lavoro, quindi proprio nelle fabbriche, ma nelle scuole, la prima assemblea pubblicamente autorizzata in un liceo è stata proprio al Mamiani nel 1968, il liceo Mamiani. Insomma, sono tanti fatti e esperienze di vita che ci hanno portato in un mondo che oggi forse diamo un po' troppo per scontato, e quindi ci sono alcune cose dove sembra quasi di ritornare indietro, oppure dandole per scontate non ce ne curiamo più e poi regrediamo. E qui questo regresso lo vorrei citare pasolinianamente parlando, quest'anno pure è il centenario di Pasolini, e Pasolini parlava molto tempo prima di progresso e regresso, e quindi quanto la società di allora, quindi lui parlava negli anni 60 e parlava di regresso, e oggi che cosa sta succedendo? Ecco, non lo so, è un modo leggero, perché lo spettacolo alla fine è uno spettacolo leggero, però di interrogarsi su quello che eravamo, su quello che siamo, su quello che potremmo diventare, però ecco, lo facciamo attraverso racconti, canzoni, storia, autobiografia. Ecco. Ti lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Potete andare sul sito del Teatro Altrove o sulla pagina Facebook del Teatro Altrove, cercando Altrove Teatro Studio, oppure andate sulla nostra pagina che è ilnaufragarmedolce.it, idem per Facebook, c'è sempre la pagina del Naufragarmedolce. Se volete prenotare direttamente con la nostra mail, info@ilnaufragarmedolce.it, senza apostrofo e senza accento chiaramente, oppure potete mandare un messaggio di WhatsApp al 351-907-3887. Lo spettacolo Ma che colpa abbiamo noi? 68 motivi per raccontarsi a Roma all'Altrove Teatro Studio dal 18 al 20 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Chiara Casarico. A presto! Grazie, a presto e vi aspetto. Con Viviana Simone, regista dello spettacolo La rivalsa delle streghe, a Roma, Teatro Petrolini, dal 18 al 20 febbraio 2022. Ben trovata! Grazie e buongiorno a tutti. Che racconto è? La rivalsa delle streghe è uno spettacolo che attraverso l'allegoria delle maschere della commedia dell'arte, quindi attraverso il gioco comico dei personaggi della commedia dell'arte, affronta il tema della difesa dei diritti delle donne. Non a caso nel titolo c'è la rivalsa delle streghe, proprio a intendere la rivalsa delle donne che in qualche modo rivendicano e riconquistano il loro posto nella società. Come nasce il progetto? Nasce da una mia voglia di cominciare a fare teatro come piace a me, e avendo io una formazione, una specializzazione in commedia dell'arte e praticandola da tanti anni, avevo buttato giù questo testo che appunto rispecchia una mia urgenza, che è quella di parlare appunto di donne, e ho coinvolto altri 4 attori e una squadra immensa tra scenografi, costumisti, aiuto regia, assistenti alla regia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, e abbiamo messo su questo spettacolo perché riteniamo che la commedia dell'arte, essendo un tipo di teatro universale, possa parlare a chiunque, dal pubblico del teatro al pubblico della piazza, e dai più grandi ai più piccoli, e quindi ci è sembrato una combo perfetta proprio per riuscire a veicolare il messaggio che vogliamo portare in giro per il mondo al maggior numero di persone possibili. Come hai pensato la messa in scena? La messa in scena è pensata per azioni. Nel senso che ovviamente la commedia dell'arte ha delle regole che vanno rispettate da un punto di vista di consecuzione drammaturgica delle scene, dei monologhi, ma fondamentalmente quello che è stato il lavoro, a parte di estrema libertà, perché il testo sì c'era, però ci siamo anche lasciati liberi di fare degli innesti, di improvvisare sul copione dato, e poi abbiamo fatto un lavoro che appunto si è svolto per azioni, quindi il creare la, quindi il movimento del personaggio che rispecchiasse il suo obiettivo nella storia, in una continua alternanza tra azione e battuta, tutto sottolineato da un accompagnamento sonoro che è allo spettacolo, perché noi suoniamo in scena, cantiamo dal vivo e facciamo una vera e propria colonna sonora con una serie di strumenti musicali di rumoristica che sottolineano l'azione, le enfatizzano in alcuni momenti, e quindi diciamo che c'è nel complesso una grande partitura di azione e suono che accompagna l'intero spettacolo, dall'inizio alla fine. Prima hai parlato di universalità. Quali sono, secondo te, gli altri elementi che rendono la commedia dell'arte attuale? È attuale perché conserva quella matrice per cui ogni persona del pubblico, ogni strato sociale può rispecchiarsi in uno dei personaggi che sono sulla scena. E questo fa sì che la commedia dell'arte non possa mai essere antica, perché gli schemi della società seppur modificatisi nel tempo, mantengono quella che è una suddivisione che è quella attuale, è la stessa di 500 anni fa. Quindi c'è chi comanda e c'è chi invece viene comandato, c'è chi ama il potere e c'è invece chi persegue l'amore. Queste sono caratteristiche archetipiche che permangono nella commedia dell'arte come anche nella nostra società, quindi c'è un continuo riconnettersi a quello che è un contesto di attualità assoluta. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e sulla vostra attività in generale? Comincio con il dire che lo spettacolo ha una pagina Facebook dedicata, è appunto La Rivalsa delle Streghe, e poi il gruppo di lavoro si chiama Libera Canti e si trova sia su Facebook che su Instagram. Quindi basta digitare Libera Canti e noi ci siamo. Lo spettacolo La Rivalsa delle Streghe a Roma, Teatro Petrolini, dal 18 al 20 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Viviana Simone. A presto! Grazie mille, ciao! Con Mirko Pierri, curatore della mostra collettiva Inhabit, Murales Etiopia, a Roma, all'Etiopia Temporary Art Hub, dal 13 al 20 febbraio 2022. Ben trovato. Grazie, salve a tutti. Raccontiamo cos'è. Murales Etiopia, Inhabit, è prima di tutto un bando per artisti internazionali che si occupano prevalentemente di arte urbana, di street art, quindi di interventi di arte pubblica, e è stato indetto l'anno scorso grazie all'idea di Maurizio Albano della PCT SRL, che mi ha invitato appunto a sviluppare questo progetto di bando e poi l'esposizione. Come si articolerà? Attraverso il bando, al quale hanno aderito circa 50 artisti da tutto il mondo, sono stati selezionati 21 artisti da una giuria esperti. Questi 21 artisti appunto sono in esposizione con le loro opere. Ci sono 21 tele che sono la reinterpretazione delle bozze, i rendering che hanno inviato per partecipare alla selezione del bando, e sono esposti anche appunto questi rendering che possono essere votati adesso da una giuria popolare. Quindi chiunque verrà a visitare l'esposizione potrà votare tre opere e il vincitore vincerà 6.000 euro come budget di compenso per la realizzazione di quella che sarà l'opera più grande mai realizzata a Roma. Ci sono anche rappresentazioni o sono immagini astratte? Molte opere sono figurative, alcune sono mica mista, però anche tra figurativo e geometrico, però in generale tutti gli artisti sono basati su una tematica specifica, cioè l'impatto che possiamo avere noi occupando uno spazio sul nostro pianeta, quindi abitando il nostro pianeta. Ognuno di noi ovviamente occupa uno spazio specifico, però come lo facciamo? Cioè qual è il nostro apporto che diamo, se è negativo o positivo, all'ambiente? O comunque in generale ogni anno sappiamo che noi umani occupiamo sempre più spazio e togliamo spazio alla natura, all'ecosistema in generale. Cosa facciamo noi? Questa è la domanda principale del progetto, che abbiamo fatto prima agli artisti e poi attraverso gli artisti faremo alle persone. Cosa facciamo noi per cercare di sviluppare una specifica collaborazione anche con le altre specie, non soltanto tra noi umani, invece di sfruttare le specie? Cosa facciamo per agevolarne anche le potenzialità? Quindi come facciamo a collaborare invece di occupare terreno soltanto edificando oppure sfruttando lo spazio naturale che abbiamo a disposizione? Ecco, questo è il tema principale al quale hanno lavorato tutti gli artisti, e poi questi 21 selezionati adesso sono in esposizione proprio per raccontare alle persone che verranno come hanno sviluppato il progetto e da quale punto di vista hanno interpretato queste tematiche che gli sono state date. Che età hanno, da quali paesi vengono e quali percorsi hanno questi artisti? Ci sono vari artisti da Buenos Aires, Milu Koric, ci sono artisti da tutta Italia, sono artisti giovanissimi, anche 23-24 anni, fino anche ad artisti che hanno un'esperienza magari anche ventennale, trentennale. La formula del bando ci ha dato la possibilità appunto di raggiungere anche artisti che non conoscevamo direttamente, perché ovviamente io come curatore d'arte urbana di solito lavoro a stretto contatto con molti artisti professionisti, anche emergenti, ma lavoro a interventi site specific, quindi di solito invito io gli artisti che credo validi per un contesto specifico. In questo caso invece, aprendo un bando, ho avuto la possibilità anche di conoscere nuovi artisti, anche giovani, emergenti, che però hanno un background che gli consente di avere la capacità poi di lavorare su superfici così grandi. La parete si dà su un parcheggio che è stato costruito proprio recentemente, aperto dalla PCT SRL, che è attraverso Maurizio Albano la ditta mecenate, no, di questo grande progetto, e la parete di 28 metri per 24 dà appunto su questo parcheggio per auto elettriche, che è il parcheggio più grande di Roma per auto elettriche, e è uno spazio molto urbanizzato. Quindi la prima idea appunto era quella che è venuta a Maurizio Albano, di dipingere questa parete cieca grigia sulla quale si affacciano molte palazzine di più di 8 piani, quindi molte famiglie la mattina si svegliano e si ritrovano davanti un muro di cemento invece che un orizzonte aperto. Quindi la prima idea è stata quella appunto di aprire un varco su questa parete, e abbiamo cercato di costruire il bando in modo che partecipassero comunque artisti capaci di realizzare un'opera anche a livello tecnico difficile come di questa portata. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Ci sono i social di ADNA Project su Instagram e su Facebook, c'è il sito di muralesetiopia.it dove trovate tutte le altre informazioni. La mostra è in Viale Etiopia 79-81 e la parete, il sito murale che poi è previsto come intervento artistico, è in Via Goretti 8, proprio al civico del parcheggio di Viale Etiopia. La mostra collettiva In Habit, Murales Etiopia, a Roma, all'Etiopia Temporary Art Hub, dal 13 al 20 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento al curatore Mirko Pierri. A presto! Grazie mille. Ecco l'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, ben trovato. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questo è il nostro appuntamento con il teatro che si fa e che si va a vedere, soprattutto, almeno nel nostro preciso caso, a Roma in questi giorni, in questa settimana. E andiamo subito nel mezzo delle cose. Partiamo dal teatro Tor Bella Monaca, perché ci sono due spettacoli questa settimana, magari ne parliamo poco perché insomma ci arriva anche poco, devo dire, però insomma, andando un po' a cercare, a scartabellare, è interessante che da questa sera fino al 19 febbraio ci sia per tutta la settimana un testo di Fausto Paravidino, ma non in scena con la regia di Fausto Paravidino, bensì con la regia di Enzo Paci, che dirige Edoardo Trentini, Luca Cesa, Daniela Camera, per questa tragedia da camera in 53 giorni. Curiosamente il cognome e l'opera hanno la stessa parola. È la terza opera di Fausto Paravidino, scritta alla fine degli anni 90, ed è Due fratelli, questa opera, una commedia cinica e asciutta, un po' insomma pieno stile Paravidino. Sono due fratelli, Boris e Lev, la coinquilina Erika, e tra le quattro mura domestiche si consuma questa che appunto prende nome di tragedia da camera in 53 giorni. Quindi insomma il titolo cambia rispetto al testo originale, che appunto vede la relazione tra questi due fratelli e un po' questa coinquilina che chissà cosa porterà all'interno del loro rapporto, della loro vita familiare. Mentre invece verso il weekend, sabato e domenica 19 e 20 febbraio, Yasmina Reza, il testo Il Dio del Massacro, in realtà Il Dio della Carnificina, lo conosciamo così come testo storicizzato del teatro internazionale, e sarà Manfredi Rutelli a portarlo in scena, la sua e la regia. Siamo un salotto borghese, due coppie di genitori si incontrano per risolvere da persone adulte e civili una questione che poi è di poco conto, una lite che scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli delle due coppie. E chissà, da lì in poi chiaramente inizia invece tutto un percorso che porterà a tirare fuori le storture, tutte le magagne più nascoste dell'animo umano e il cinismo, il moralismo di questi protagonisti. Quello che è curioso è che questo spettacolo, lo ricordo anche perché 19 e 20 febbraio appunto sarà in scena al Teatro Tor Bella Monaca il testo di Yasmina Reza, ma contemporaneamente al Teatro Vascello dal 15 al 20 ci sarà un altro testo importante già fatto in Italia più volte, sempre di Yasmina Reza, che si chiama Art ed è portato in scena dalla regia di Emanuele Conte, quindi la produzione è quella della Fondazione Luzzatti Teatro della Tosse, con in scena Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi. A come amicizia, A come arte contemporanea. Questo è un quadro bianco, tutto bianco, con delle scriminature quasi invisibili, e diventa il campo di battaglia dei sentimenti di questi tre grandi amici. In scena quindi arte di Yasmina Reza, con la firma di Generazione Disagio e la regia di Emanuele Conte, dal 15 al 20 febbraio al Teatro Vascello. Poi andiamo anche al Teatro Tordinona, perché mi piace segnalare un lavoro con la regia di Antonio Monsellato che si chiama Commedia in tre donne, quindi non in tre atti ma in tre donne. Lo scritto è di Agustina Risotto, che è anche in scena insieme ad altre due attrici come Angela Pepi e Miriam Galanti. Di che si tratta? Questo lo scopriremo in realtà, spero, in scena, perché insomma, in realtà la scheda ci dice un po' poco, ma ci dice soltanto una cosa piuttosto interessante, ovvero sia che si tratta di l'amore di Romeo e Giulietta ai nostri giorni, quindi c'è un legame un po' con la storia degli amanti di Verona, e li andremo a vedere dal 17 fino al 20 gennaio al Teatro Tordinona. Poi ancora andiamo a vedere cosa c'è al Teatro Quarticciolo, perché questa settimana la rassegna Inquietudini, dedicata alla danza, presenta due lavori firmati da due diverse compagnie, due coreografie diverse, il 19 febbraio alle ore 21 e il 20 febbraio alle ore 17. Sì, probabilmente andranno in scena entrambi in tutte e due le date. Allora, adesso che mi assista non il dio della carneficina, ma quello della pronuncia, perché la prima coreografia, entrambi, insomma, ripeto, sono all'interno della rassegna Inquietudini, che è dedicata al tema dell'adolescenza. Sono due coreografie sul tema della solitudine. La prima si chiama Grindr, credo dal nome della famosa app, Grindr Date No One, di questa compagnia che si chiama The Dance Works, che nasce nel 2018 ed è una pièce ideata, interpretata da Andrea Zardi, il coreografo di Andrea Zardi. Mentre invece la seconda performance, ecco, tanto in realtà la prima, se proprio vogliamo tanto concludere il discorso, parla sì di solitudine, ma anche di pulsione sessuale, di alienazione o semplicemente interazione con gli altri, che spingono questo individuo a chiudersi in un recinto relazionale, appunto quello Grindr, sono solo consonanti, ma insomma chi abbia sentito parlare della app saprà bene come pronunciarlo. Ma seguirà appunto Another With You, una coppia si trova a fronteggiare una noiosa e straziante ripetitività di eventi causati dall'incapacità di comunicare. I due interpreti, che sono anche autori della coreografia, sono Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali, che a volte si parlano, a volte rimangono soli, si ascoltano o si isolano in un proprio spazio. E questa coreografia appunto è firmata da i due Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali, con il nome collettivo di Dance House più Vidave Crafts, e questo è il nome, quindi spero di aver pronunciato abbastanza bene. Il 20 febbraio, dopo lo spettacolo, ci sarà un incontro con la nostra amica giornalista Katia Ippaso, al Teatro appunto Quarticciolo, quindi 19 e 20 da non dimenticare. Poi ce ne andiamo, perché no, al Teatro Lo Spazio, perché Pino Amendola porta in scena un testo di Clelia Ciaramelli con Annalisa Favetti, e il testo si chiama Lady Di, quindi ovviamente dedicato alla celebre Lady Diana, che ha concluso la sua vita da principessa mai regina sotto un tunnel del Pont de l'Alma a Parigi, dove appunto ha avuto un incidente mortale ormai molti molti anni fa, ma rimane sempre molto vivo il suo ricordo. Sarà in scena dal 17 al 27 febbraio, questo spettacolo che potremmo dire insomma biografico sulla principessa Diana, al Teatro Lo Spazio. Poi andiamo al Teatro Argostudio, perché dal 17 al 20 questa scrittrice, attrice, poetessa, una delle figure più anticonformiste del teatro contemporaneo, ovvero sia Claire Dowie, è l'autrice del testo Benji, che Chiara Tomarelli presenta in scena con la regia di Pierpaolo Sepe. Questa drammaturgia di Claire Dowie è un'esplosione penetrante, ma allo stesso tempo anche leggera, un'indagine tra un'autobiografia anche dolorosa, che pone attenzione verso i mutamenti della società e a quello che è uno dei temi chiave di questo periodo storico, ovvero sia il tema dell'identità. un grave disagio psichico, quello di Benji, che mette in scena una personalità fissa che, insomma, per esistere nella collettività deve crearsi un amico immaginario. Benji, Adult Child, Dead Child, 17-20 febbraio, Teatro Argo Studio con la regia di Pierpaolo Sepe. Invece al Teatro Fortezza Est torna l'opera con I Tre Barba, la regia di Lorenzo Deliberato. Viene presentato il Don Giovanni da Mozart e da Ponte fino appunto ai Tre Barba, ovvero sia i tre cantanti che presentano quest'opera lirica irriverente. Il Don Giovanni è l'opera di quest'anno in stile pop che, insomma, prende Mozart e da Ponte e chissà dove li porta. Lorenzo Deliberato anche in scena con Lorenzo Garufo e Alessio Esposito al Teatro Fortezza Est, 17, 18 e 19 di febbraio. Questa sera un omaggio a Giorgio Gaber al Teatro dello Spazio con Valentina Cardinali e Marzia Ercolani, quindi un omaggio a Gaber in parole e musica, mentre invece al Teatro Off Off, che si trova via Giulia, dal 16 fino al 20 febbraio, Masha Musi, che è un'attrice importante, un'attrice storica del nostro teatro, ha interpretato anche delle cose particolarmente importanti, ma che poi finiamo per non ricordarci più nel tempo, interpreta questa preghiera per Chernobyl, la regia è di Massimo Luconi, ma l'opera appunto è firmata da Svetlana Alexievich, che è il premio Nobel 2015, preghiera per Chernobyl, ovviamente porta all'interno della tragica vicenda nucleare che ha colpito la zona di Chernobyl, tra l'altro una zona che in questo periodo storico vede di nuovo il dramma, lo smarrimento di un popolo per una guerra che si affaccia alle porte che nessuno prevedeva di vedere in quest'epoca storica. Andremo a vedere Preghiera per Chernobyl dal 16 al 20 febbraio al Teatro Off Off di via Giulia. Dal 15, quindi da questa sera fino al 27 febbraio, al Teatro Cometa Off i Mezzalira presentano questo nuovo lavoro con Panni sporchi fritti in casa. Il terzo capitolo completa una trilogia iniziata da Agnese Fallongo con Tiziano Caputo, dopo appunto aver assistito a Letizia Vallaguerra negli anni passati, e la regia è affidata a Raffaele Latagliata e in scena ci sarà anche Adriano Evangelisti che li affianca con corpo e voce per questo lavoro appunto di Panni sporchi fritti in casa, che sarà in scena al Teatro Cometa Off. Poi ancora, soprattutto con due progetti. Il primo è del Teatro di Roma, precisamente al Teatro India, 16-20 febbraio, progetto di Tamara Bartolini, Michele Baronio, Josephine. Poco prima di morire, Franz Kafka scrive il racconto Josephine, la cantante, ovvero il popolo dei topi, in cui una topolina, Josephine, cantando, scatena un'emozione tanto forte da fermare la corsa senza sosta dei topi. Questo canto di Josephine evoca un popolo che dimentica se stesso e si raccoglie attorno all'artista, la gioia infantile del gioco. Quindi cosa meglio di questo per cercare di riportare attenzione sul comparto culturale che viene continuamente vessato da giochi di potere che molto poco hanno a che fare con l'arte, molto troppo di più con la burocrazia attorno. Quindi Josephine, 16-20 febbraio al Teatro India per Bartolini Baronio. Mentre invece questa è la settimana in cui all'Auditorium Parco della Musica andremo a vedere gli spettacoli di danza del Festival Equilibrio, dopo aver debuttato questo ultimo weekend con la ricreazione di un vecchio spettacolo Re Rosas di Anna Teresa de Kersmacher e con il spettacolo evento di Sharon Eyal. Questa settimana, da questa sera andremo a vedere lavori del calibro di Amwelt della compagnia Maghimaren, così come il Rosa, 10 esercizi per nuovi virtuosismi con Claudia Marsicano, giovedì 17, ed è l'ideazione quella di Silvia Gribaudi. Sabato 19, il grande ritorno a Roma con Another Round for Five di Cristiana Morganti, mentre proseguiremo il weekend con due creazioni firmate da Alessandro Sciarroni, Joseph Kitz, una creazione, perdono, Joseph Kitz con Michele Di Stefano e Marco D'Agostini, in doppia replica alle 11 del mattino e alle 17 del pomeriggio, sempre di domenica 20 febbraio. E con questo direi che abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.